A bordo campo di Dario Ricci. L'aria quassù ha odore di neve. Scenderò un lieve anch'io come. 21 anni, nato a Santa Caterina di Val Gardena, in 8 anni di carriera ha conquistato 3 medaglie ai mondiali juniores, un oro, un argento e un bronzo. E poi lo scorso 25 gennaio da quel trampolino di Oslo è arrivata forse la medaglia più bella, un argento nella gara di salto con gli sci femminile al mondiale appunto norvegese, una delle due medaglie che ha conquistato la spedizione italiana. Benvenuta a bordo campo ad Elena Lungaldier. Grazie, grazie. Elena, toglici subito una curiosità, ma che cosa si vede da lassù? Io quando vi vedo saltare da quel trampolino vedo delle foto in cui voi vedete queste vallate immense, sembrate tuffarvi nelle città, ma riuscite a vedere qualcosa o siete talmente concentrate, prese sul salto che quasi non ve ne accorgete? Ma quando avevamo salto di gara non si vedeva niente perché c'era tantissima nebbia. Purtroppo non si vedeva il pubblico perché sono arrivati tanti tifosi da casa a tifarci ed era una bellissima cosa, ma poi alla fine quando eravamo giù abbiamo visto che c'era tantissima gente e che il pubblico c'era. Non era un audio registrato, insomma, c'erano veramente quei tifosi, eh? Sì, c'erano. Poi tra l'altro nel nord Europa soprattutto il salto con gli sci è una vera e propria religione, no? Fa parte della tradizione sportiva di quei paesi molto di più di quanto non lo sia da noi. Sì, è che su ad Oslo c'è praticamente che il salto e lo sci nordico è proprio la mecca dello sport. È proprio una sorta di religione, ho visto tutti i tifosi sulla collina Holmenkollen, notte e giorno, gran braciolate in attesa delle gare. Sì, che in Norvegia il salto e lo sci di fondo, la combinata nordica sono gli sport più importanti, e per questo motivo veniva seguito tantissimo da tutta la gente, perché è proprio dove è nato lo sport, questo sport. Eh sì, tra l'altro parliamo di salto con gli sci, che è già uno sport molto particolare qui in Italia e soprattutto nella sua versione al femminile. Elena, quante siete qua in Italia a saltare? 4, 5, 6? Ma no, siamo un pochino di più, non tante, però cresce. Ci sono giovani ragazze che stanno iniziando l'attività ed è una bella cosa, speriamo che ci siano ancora di più perché abbiamo bisogno di tantissime saltatrici perché è proprio uno sport bellissimo. Sport bellissimo, e spiegaci anche come lo hai scelto, perché insomma uno immagina che da una ragazza come te sogni di diventare, non so, la Carolina Kostner del pattinaggio artistico, o magari una brava pallavolista, o magari una brava sciatrice, ma insomma al salto in alto penso che a casa quando l'hai detto mamma e papà che hanno detto, dice tu ma dove vai, ma torna qua. Ma era il primo aprile quando Romet Moroder mi chiese se volevo praticare salto con gli sci e io senza pensarci ho detto sì, ovvio, faccio perché tanto è soltanto pesce d'aprile. Pochi giorni dopo mi ha chiamato e mi disse allora domani andiamo a fare il primo allenamento e io non mi rendevo conto che avevo detto di sì, adesso mi toccava andare a provare salto e mi è piaciuto tantissimo. Gli hai detto, dice, ma non c'è una domanda di riserva, non era uno scherzo. No, era uno scherzo. E, tra l'altro, sport che richiede sacrifici enormi a partire da quello della dieta, no? Insomma, sappiamo quanto tutti gli sport richiedano un regime alimentare assolutamente perfetto, ancora di più chi a partire dal proprio peso deve sollevarlo per un centinaio di metri e ottenere la massima distanza. Insomma, da quello che so, mangiate 2 olive o poco più, le cose sono cambiate, vero? No, è che ovviamente dobbiamo avere un'alimentazione equilibrata per tutti gli sport, penso che sia così. Poi noi non è che possiamo pesare troppo perché poi è uno svantaggio, però non è così severo, mangiamo normalmente, non è che non mangiamo niente, mangiamo normale, non è che... Allora ho d'obbligo chiederti il piatto preferito e come te la cavi anche in cucina, Il piatto preferito sono... mezzaluna di spinaci della nonna. Ah, caspita, qua già mi viene un po' d'acquolina in bocca. E tu con i fornelli come te la cavi invece? Abbastanza bene, mi piace cucinare. Ah, bene, bene, quindi insomma quasi quasi vediamo se a fine intervista merito un invito a pranzo. E senti Elena, dicevamo, grandi risultati ai mondiali che sono stati importanti per te, per questa medaglia, ma per l'intero movimento, perché rappresentano un ulteriore passo d'avvicinamento verso quello che è il sogno di tutte voi donne saltatrici, cioè essere finalmente ammesse ai giochi olimpici. E l'obiettivo a questo punto è Sochi 2014, perché spieghiamo ai nostri ascoltatori, nella versione al femminile il salto con gli sci ancora non fa parte del programma olimpico, vero? Sì, ancora non fa parte, però penso che adesso anche con questa gara qua abbiamo aperto qualche porta per le Olimpiadi di Sochi, e penso proprio che ci faccia saltare, spero con tutto il mio cuore che andrà. Lo speriamo tutti, anche perché diciamo pure francamente il Comitato Olimpico Internazionale pone delle norme anche a tutela delle atlete stesse, nel senso che serve un bacino di partecipanti qualificate e almeno due edizioni dei mondiali per dimostrare insomma un po' la maturità di una disciplina che si appresta a entrare nel panorama olimpico, è così, vero? Sì, che praticamente fino adesso abbiamo fatto soltanto un mondiale, quello di Libere, questo qua di Rio II, prima si sapeva che non era possibile poter partecipare a delle Olimpiadi, e adesso con due mondiali dovrebbe essere a posto, e ci sono 15 nazioni che praticano questo sport, ragazzi, ce ne sono tantissime, sono fiduciosa che salteremo a Sochi. Eh beh, insomma, anche perché se cominciano ad arrivare anche le medaglie, tanto vale andarci, no? Insomma, l'Olimpiade è bella, i cinque cerchi e tutto quanto, però se uno torna pure con una medaglia al collo, male non fa. È ancora più bello, sì. Come adesso a Oslo, ma è bello andarci, però poi tornare a casa con una medaglia è ancora più bello. Insomma, al check-in la fanno passare volentieri, ecco. Sì. Senti, ma c'è tempo anche per l'amore a forza di salti e cose varie, oppure magari i ragazzi sono un po' intimidite da voi scavezzacollo? Ti chiedo così, alla cieca, tu sei fidanzata? Sì, sono fidanzata con un fondista, entrambi siamo via spesso per gare, cioè adesso è quasi normale che non ci vediamo così spesso, però poi dopo quando ci rivediamo dopo, non so, una settimana così è ancora più bello, allora. Va bene. Insomma, fate una bella combinata nordica, che per chi non lo sapesse è proprio la combinazione di una gara di salto e una gara di fondo, no? Sì, sarebbe perfetto, direi. Magari tu è bravo nel fondo, io nel salto, allora... Allora, magari potrebbero fare una gara a squadra. Infatti lanciamo subito la proposta, la combinata nordica mista, e abbiamo già la squadra fatta e nel salto siamo già argento mondiale, quindi chi si vuole adeguare deve venire dietro. Senti Elena, ti chiedo ancora, è bellissimo sentire il tuo sorriso, perché mi sembra che la tua risata, perché mi sembra che questo argento abbia portato anche tanta allegria. So che su quel trampolino di Oslo, e sappiamo tutti, non hai saltato da sola, no? Come ci ha ricordato anche quel guanto bianco con quella scritta Simona nel cuore. Sì, è che sono sicura che lei mi abbia aiutato, sia a me che a tutta la squadra, perché abbiamo fatto una buonissima prestazione di squadra, però purtroppo non c'era, e penso che ci abbia aiutato tantissimo, e lei è sempre con noi. Sicuramente Simona Senoner, che era la tua grande amica e che, lo ricordiamo, è scomparsa a causa di una meningite fulminante a inizio gennaio, amica e compagna di squadra, ti ha aiutato e ti è stata vicina in quel salto. Più difficile o più facile saltare in due, Elena? Ma adesso è successo, noi non possiamo più andare indietro, purtroppo la vita è fatta anche così. So che era con me, e sicuramente mi ha fatto saltare bene e aiutato, è stato più facile. Sicuro, sicuramente. Senti, ti chiedo ancora, insomma, tanta neve, però uno sogna anche un po' di vacanze, dopo un argento mondiale, comincia anche a sfogliare qualche catalogo e magari Mauritius e Seychelles non sono destinazioni che scarta a priori, ecco, diciamo così. Tu già ci pensi, oppure il resto della stagione cosa prevede? Sì, adesso faremo ancora alcuni allenamenti solo per testare nuovi materiali per l'anno prossimo. Poi penso che andrò in vacanza, però ancora non ho sfogliato nessun giornale, niente. Vedremo. Senti, ma mare o montagna, perché per capire? Ma in montagna vivo già tutto da tantissimi anni, allora adesso mi toccherà anche andare al mare. Eh sì, facciamo il sacrificio, almeno ti troviamo abbronzata all'inizio del prossimo anno, ma non... Non so se sarà possibile trovarmi abbronzata. Vedremo, però noi promettiamo di non inseguirti né al telefono né con i paparazzi, ti lasciamo tranquilla al tuo riposo e alla tua combinata nordica sulla sabbia, vediamo come vengono, grazie. Come verrà. Elena Rungaldier, grazie di essere stata ospite a bordo campo. Un'ultima domanda per chiederti: qual è il prossimo sogno, qual è il prossimo obiettivo? Immagino a cinque cerchi. Beh, adesso dalla stagione prossima avremo la Coppa del Mondo, che fino adesso non c'era. È sicuramente un bello obiettivo, però poi in 2 anni ci saranno i mondiali assoluti in Italia, Val di Fiemme, e penso che sia quello il prossimo obiettivo, poi dopo si vedrà per le Olimpiadi. Allora, intanto facciamo la valigia per il mare e grazie per essere stata nostra ospite a bordo campo. Ok, grazie a te. A bordo campo. Quando cadi giù, quando la vita è un sasso, con un salto puoi recuperare il passo. Lasciala fluire l'energia del suono, che non posso, che non posso, che non posso fermare. Salta più alto, prendi il tempo. I salti nella neve di Elena Rungaldier, ospiti pochi istanti fa qui a bordo campo. E adesso, sempre di salti, parliamo di un'altra grande campionessa azzurra, ma stavolta ci tuffiamo nella sabbia. Da Palermo a Parigi per vedere i tuoi prodigi. E in realtà non è magia, è Simona Lamantia. Questo lo striscione che era sulle tribune di Parigi-Bercy. Beh, Simona Lamantia, benvenuta a bordo campo. Bella la rima, eh? Salve a tutti. Sì, è uno striscione che il mio ragazzo ha fatto per me, che ero all'oscuro di tutto. Eh sì, perché c'era da sostenere Simona, che era in pedana nel salto triplo agli europei indoor di Parigi di atletica leggera, e direi che lo striscione ha portato fortuna, e soprattutto grazie anche alla tua forma straordinaria è arrivata una medaglia d'oro, un oro storico per la nostra atletica, che tra l'altro a Parigi dalla pedana del triplo ha fatto man bassa, perché c'è stato anche l'argento di Fabrizio Donato e poi l'altro oro di Antonietta Di Martino nel salto in alto. Insomma, una spedizione azzurra colorata soprattutto di rosa, Simona? Eh sì, questa spedizione è stata veramente fortunata per le donne. Le donne che del sud, tra l'altro, perché anche Antonietta Di Martino, lei è campana. E poi anche vicino appunto alla festa delle donne, che è stata l'8 marzo. Eh sì, lo sentite da questo bellissimo accento che ci fa sentire proprio i profumi e i suoni del Mediterraneo. Simona Lamantia è siciliana, 27 anni, già argento agli europei all'aperto di Barcellona dello scorso anno, quindi insomma a quella medaglia d'oro già avevamo cominciato ad avvicinarci alla grande, e poi eccolo finalmente questo oro. Siciliana sì, ma anche un po' altoatesina, se non sbaglio, vero? Per origini di famiglia. Spiegaci un po', Simona. Sì, diciamo che sono un mix tra nord e sud, perché mio papà è siciliano e da lui ho preso la cocciutaggine, la testardaggine, il fatto di non mollare mai di fronte alle difficoltà. E da mia mamma invece, che è altoatesina, ho preso un carattere molto che sono molto precisa, puntigliosa, puntuale, insomma ho preso un mix da nord e sud. Direi anche un bel oro che, come tu hai voluto sottolineare subito già sul podio di Parigi-Bercy, è anche un bel regalo all'Italia che festeggia 150 anni. Sì, appunto sono molto orgogliosa di essere italiana e di poter rappresentare sportivamente l'Italia nel mondo e quindi anche all'estero. E poi è un'emozione grandissima salire sul podio e poter cantare l'inno di Mameli, è stata un'emozione fortissima. Quella è la nostra storia, la nostra cultura, e gente che è morta per noi, per far sì che l'Italia fosse unita. Parole che sottoscriviamo, Simona. Dicevamo, tornando in pedana, cocciutaggine tipicamente altoatesina, no? Unita a questa passionalità siciliana, e direi un bel mix di caratteristiche che ti hanno aiutato anche a superare una lunga serie di infortuni che ha condizionato la prima fase della tua carriera, vero? Già, io ho avuto una prima carriera da giovane atleta molto importante a livello internazionale. Avevo conquistato una medaglia d'argento agli europei under 23 e 2 anni dopo un'altra medaglia d'oro, questa volta sempre agli europei under 23. Dopodiché sono arrivati 3 anni di infortuni in cui ci sono stati periodi che pensavo di mollare, di dedicarmi ad altro, ma poi grazie al sostegno della mia famiglia, del mio gruppo sportivo Le Fiamme Gialle, del mio allenatore, che hanno sempre creduto in me, sempre, sempre, mi sono ributtata nello sport con la voglia veramente di risollevarmi e di conquistare qualcosa di bello. Direi che la scommessa è stata vinta, scommessa vinta che ha portato anche qualche premio, no? So che adesso sei in vacanza, ti dovresti essere concessa, almeno da quello che ti eri ripromessa, una pizza, un sushi e anche una visita a Euro Disney, piccoli desideri realizzati? Sì, assolutamente sì, ancora questo fine settimana relax, mi sono già vista con un po' di amici, siamo andati a festeggiare con il sushi, con una buona pizza, poi mi sto concedendo anche sul mangiare, perché comunque ho fatto una dieta molto stretta per arrivare in forma a questi europei, adesso mi sto concedendo un po' di buon cibo, soprattutto dolci siciliani. Oh, eccola là, quindi cannoli e cassate, insomma, esatto. Almeno per un fine settimana che nessuno stacchiamo la dieta dalla lavagnetta, esatto, in cucina. E dopodiché dalla prossima settimana di nuovo sotto con gli allenamenti e guardando alla stagione estiva e quindi all'appuntamento più importante, che saranno i mondiali di Daegu in Corea del Sud. Assolutamente, adesso ci arriviamo. So anche che però c'è anche un altro impegno extrasportivo, che è l'università, no? Finora sì. Impegno in scienze motorie, mancano 11 esami, pochi giorni fa ne ha superato uno, quello in malattie dell'apparato locomotore. Insomma, riesci a coniugare sport e libri? Non è semplice, perché e purtroppo le sessioni di appello degli esami arrivano sempre al momento delle gare più importanti, quindi quando riesco do qualche esame, però più di 2-3 esami all'anno non riesco a dare, per questo ancora non, insomma, sono rimasta un po' indietro, perché avrei dovuto già terminare con l'università, ma non è facile. Insomma, però anche le medaglie servono come incoraggiamento e stimolo. E poi, insomma, professori, creiamo qualche sessione straordinaria per aiutare atleti altrettanto straordinari. Lanciato l'appello, dicevamo, l'appuntamento già segnato col circoletto rosso sul calendario sono i mondiali di Daewoo in Corea quest'estate. Ci si arriva con altre ambizioni a questo punto, non solo quello di far bella figura, ma magari anche qualcosina in più, direi, no? Sì, si arriva con tante altre prospettive, soprattutto per quanto riguarda le misure. Ci saranno avversarie molto forti come le cubane, che sono specialiste in questa disciplina, però io sarò là a difendere i colori dell'Italia, e visto questo 14,60 indoor e il mio personale all'aperto di 14,69, questo mi può far ben sperare nel fare un record personale all'aperto. E senti, fuori dalla pedana, obiettivi, sogni. Qua Alessandro ha scritto questo bellissimo striscione. Secondo me poi in cambio vorrà almeno portarti all'altare, eh? Perché insomma il ragazzo ha fatto, si è impegnato, sta dando tanto, cerchiamo pure di venirgli incontro, eh? Scherzo, per carità. Beh, lui è entrato nella mia vita da 2 anni e sicuramente mi ha dato e mi ha regalato veramente tanto. E spero ci sarà tempo anche per un appuntamento futuro con lui, ma non troppo futuro, non voglio anticipare niente. Cioè, abbiamo parlato di matrimonio, però ancora non voglio anticipare niente. Bene, allora, con questa mezza promessa di ritrovarci qui a bordo campo, magari per parlare anche di fiori d'arancio, intanto Simona Lavantia, ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci ha dedicato, la tua simpatia e incrociamo le dita e soprattutto un grande in bocca al lupo per i prossimi obiettivi in pedana e anche fuori dalla pedana. Grazie mille a voi, è stato un piacere fare questa chiacchierata con voi. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito web. L'appuntamento è per domenica prossima, come d'abitudine alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.